Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo? Ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a nove code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, sono le 8:19 minuti e no, oggi Oscar Giannino non c'è, mi ha abbandonato, ma tranquilli, solo per un giorno, domani sarà qui regolarmente al suo posto, però che dire, non vi posso snocciolare i santi del giorno perché non posso assolutamente mettermi al suo livello, e quindi tranne uno. Oggi è Sant'Oscar Ansgario, e proprio quindi questo lo dovevo dire, Sant'Oscar 3 febbraio. Ma va bene, sono le 8:19 minuti, ma non voglio essere solo, meglio essere male accompagnati, e quindi ho chiamato Veronica Gentili. Ma grazie, commentatrice, firma del Fatto Quotidiano, opinionista in varie trasmissioni, perché ce la rubano così. In che trasmissioni vai? Perché ti rubano. No. Si dice il peccato, ma non il peccatore. Poi non vorrei che no, tu se sei in TV, se sei in TV, appunto, non è che puoi nasconderlo. Non è che puoi Omnibus, nasconderlo. Omnibus, coffee break, tutte queste trasmissioni, sì. No, con un po' più di entusiasmo, perché sennò poi ti tolgono subito, scindono i contratti. Allora, con Veronica Gentili. Allora, cara Veronica, oggi sui giornali c'è il commissario Tronca, wow, va detto così, Tronca, con questo, prova a dirlo tu se ti viene bene. Tronca. Bene, perché è molto duro nel voler vederci chiaro su questa storia degli affitti a prezzi stracciati del patrimonio immobiliare di Roma. Molto duro. Sentiamolo tra l'altro, sentilo qua, Tronca, perché parla raramente, c'è pochissime interviste, ma c'è quest'audio, senti Tronca. Ora si tratta di analizzare posizione per posizione per capire quando è partito il singolo affitto e da chi è partito. Ci limitiamo a un semplice affitto oppure sono subentrati anche dei subaffitti? Io posso assicurare i romani soltanto di una cosa, che con tempi estremamente accelerati io intendo concludere questa operazione su tutti i municipi. Guarda che questa è una novità, se ci fosse, per la quale io dico tronca, cioè, perché adesso i giornali secondo me fanno un errore di questo tipo. Io capisco che il colore e tutto, cioè prendono dei capri espiatori, tutti i cronisti sono scatenati, hanno trovato un capro espiatorio a questa signora, poveretta lei che ha fatto queste interviste, Giuseppina Tozzi, vive a Borgo Pio, 8,27 € al mese, ma dice però il pane costa. Vabbè, ma infatti la signora va lasciata stare, che gli inquilini finché ci fanno stare stiano lì. Beh, io voglio trovarlo. Quando troverò qualcuno che avendo un appartamento a Borgo Pio in affitto ad 8 € andrà ad autodenunciarsi, veramente. No, ma infatti mondo andrà alla rovescia. No, non deve autodenunciarsi, però neanche dire però il pane costa. Perché è chiaro che dire, poi c'è la difesa con l'arrampicata selvaggia sugli specchi. Ecco, esatto. Però è anche vero che queste cose non le abbiamo scoperte oggi, cioè, si sapevano. Chi un po' ha in mano la realtà immobiliare di Roma la conosce, sa come funziona. Per esempio c'è l'Unione Inquilini che si occupa della gestione delle case, si occupa delle case popolari, di cui il segretario è questo signore che si chiama Guido Lanciano, che giustamente dice: beh, meno male che Tronca ha scoperto, tra virgolette, la situazione. Certo, ma infatti loro lo denunciano da moltissimo tempo. Ma questo è vero, tempo. Ma cosa fa Tronca se lo fa? E sono qui a dire Tronca! Tronca! Tu dici Tronca! Che va a beccare, chi ha firmato, chi ha permesso tutto questo, i dirigenti in comune che hanno. Non dobbiamo prendercela, certo, ce la possiamo prendere con la signora Giuseppina Tozzi che si difende in maniera un po' penosa dicendo: ma il pane costa. È chiaro, certo. Ma chi è il dirigente che vedeva quell'8,27 € e ha lasciato così? Ecco, Tronca è lì che vuole andare a vedere. E poi perché ha lasciato così? È sempre questo il discorso, solo che ogni volta che c'è la verifica delle responsabilità inizia un gioco di scarica barile in cui spessissimo si finisce col non trovare un responsabile o finire col trovare un capro espiatorio, lasciando poi tutto sommato le cose più o meno intonse. Ce la farà tronca? È questo che, è lì che deve incidere. Ma lui non è il politico che ha bisogno del consenso elettorale. Cioè, se lui dice questi dirigenti sono coloro che sono i responsabili di questa cosa, chi gliene frega? Mica deve prendersi voti alla prossima elezione, è un prefetto. No, è chiaro, ma infatti si tratta semplicemente di trovare un modo per riuscirci. Cioè, lui parla adesso, stanno mappando il primo municipio e stanno cercando attraverso i data acquisiti di vedere se corrispondono con la reale organizzazione della città e come sono gestite queste case. Ora voglio vedere se questo verrà fatto. Cioè, voglio dire, sono situazioni, appunto, tronca il vantaggio di non cercare consenso elettorale, sì, ma comunque è una vicenda che anche secondo me nel consenso collettivo avrebbe un buon esito, perché sì, pensare che ci siano delle case assegnate a 20 euro è scandaloso. Tutti quelli che non ce le hanno, anche perché per legge è così. Questa signora che dice che il pane costa, a me dispiace perché dice prendo 400 euro di pensione, c'ho l'artrosi, sono vecchia, ma io non le voglio mica male, però insomma, come può dire il pane costa? Il pane costa anche per chi vive nella sua stessa via e paga magari, quanto costerà a Borgo Pio, Veronica, un affitto vero, 2000? Dipende che tipo di casa hai, certo, se ha realmente un bugigattolo la signora, io non lo so, 800-900 euro se è una casina, ma se no costano minimo 1500 euro almeno gli affitti. C'ha 27 metri quadri, quindi è piccolina, però insomma, è piccolina, quindi secondo me una cosa equivalente costerà 800-900 euro nella realtà, sì, e Borgo Pio non è neanche la zona in assoluto più cara, però sono tutte quelle zone storiche, il vecchio centro storico che adesso è inaccessibile a chiunque. Però, cioè, cara, comprare case lì è praticamente impossibile. Veronica, noi tra poco parliamo ancora di Unione Civile, avevamo il primo ospite. Prima però poi c'è anche una sentenza che vorrò discutere, ma siccome il tempo vola, quella di Palermo la discuteremo più avanti. Prima ti voglio fare questa domanda. Tu fumi? No, non è che voglio farmi i fatti tuoi, ma tu fumi? Mio caro, sì, io fumo poco, fumo la sera dopo mangiato, ma fumo. No, e avevo anche un piano su dove buttare le sigarette per strada. Tu non mi puoi prestare la tua lingua, che quando io le devo spegnere le spengo lì. No, ma scusa, allora è stato su WhatsApp mi hanno scritto almeno in 50, devo dire, che la pensano come me, forse un po' arrabbiati, e dicono bravo, grande, immenso, perché ho detto questa cosa, la ripeto in maniera provocatoria. Adesso i fumatori dicono ci sono le multe, ma non sappiamo dove spegnere i mozziconi. E io ho detto democraticamente, ma ingoiatevelo. Cioè, avete per 30 anni imbrattato le città, non tutti, ci sono anche quelli ligi, imbrattato le città, e adesso prendete la scusa che non c'è il portamozzicone per violare ancora la legge? Io ti sento talmente risoluto che vorrei farti fare il commissario straordinario a Roma. Devo fare io il tronca. Io penso a te. Sì. Secondo me tu sei la persona giusta, sei in grado di sanare la questione degli affitti subito. Chiaro, è giusto. Ma no, nemmeno più la candidatura a sindaco, perché ti voglio libero di muoverti, come dicevi prima. Perché no? I fumatori farebbero come te, mi cercherebbero per spegnermi la sigaretta addosso. Ecco, questa è la verità. Anche questa sarebbe una funzione da commissario straordinario. Sì, no. Muoverti, capito? Anche la gente abbia risolto il problema di dover spegnere la sigaretta, anche con un lieve tocco di piacere sadico. Ma giustamente mi scrivono, ci sono i portacenere tascabili, c'è gente che fuma in macchina, c'ha il portacenere in macchina e butta la sigaretta fuori dal finestrino e si lamenta, non so dove buttarla, capito? Cioè, quello che deve diventare uno sforzo, perché per anni è stata l'inciviltà di buttarlo per terra, diventa il pretesto, non so dove buttarlo, quindi finché non mi date il portamozziconi io continuo a buttarlo per terra e io ti multo. Guarda, in realtà basta fare come in America, che da questo punto di vista è un paese illuminato, non si fuma più da nessuna parte, se butti una sigaretta al finestrino ti arrestano direttamente. Vabbè, quindi sei più talebana tu di me adesso. No, io su questo stavo semplicemente facendo ironia, diciamo che vorrei empatizzare con questo tuo accalorarti sui mozziconi delle sigarette. Vabbè, ma reduci dalla questione degli affitti, il mozzicone delle sigarette già scende di grado, attenzione, e andando avanti, capito, poi mi parti con le unioni civili, io il mozzicone un po' così scende. No, vabbè, scende ancora. Comunque, tra l'altro, come voi sapete, c'è il numero, se volete intervenire su quello che volete, 800 24 00 24, sugli affitti di Roma, sui mozziconi, sulle unioni civili di cui parliamo adesso. Un ultimo inciso sugli affitti di Roma. Ci fu anche poi il famoso piano casa di Lupi, prima che ci fosse la vicenda del Rolex, in cui si pensava, no, che ci fu il problema che gli inquilini delle case popolari erano disperati perché volevano mettere all'asta tutte le case che non potevano essere riscattate. Allora, questo veniva fatto, delle cose, anche delle ingiustizie invereconde, e nel frattempo però c'erano situazioni come queste che non venivano viste e denunciate. Stiamo parlando della capitale d'Italia, quindi diciamo che ci sono state tutta una serie di persone che hanno ricoperto dei ruoli importanti e che erano, si sarebbero dovuto occupare di questo. Allora, ma tanto il tema rimane lì, vedrai che qualcuno ci chiamerà. Ma le unioni civili, vogliamo salutare con Veronica Gentili il senatore del Partito Democratico Sergio Lo Giudice. Buongiorno senatore, ben trovato. Buongiorno a tutti e a tutti voi. Allora, il senatore Sergio Lo Giudice, va anche spiegato agli ascoltatori, è senatore del PD, è stato per anni, quanti anni, presidente nazionale di Arcigay, e tra l'altro è notorio, insomma, con un compagno ha anche un figlio. Allora, senatore Lo Giudice, io chiedo a tutti gli ospiti in questa settimana, insomma, intanto un pronostico secco, facciamolo un po' a calcio, ma passeranno queste unioni civili per lei, passeranno con un compromesso, salteranno? Ma le unioni civili saranno approvate dall'Aula del Senato, l'ha dimostrato il voto molto ampio che c'è stato ieri sulle pregiudiziali di costituzionalità. Sì. Il punto è come si arriverà alla meta, nel senso che questa legge si tiene insieme sulla base di alcuni criteri che non possono essere modificati se non a scapito della stessa costituzionalità della legge e poi del mantenimento di quelle promesse che il Partito Democratico e il Premier Renzi hanno fatto. Però lei sa che il partito è molto spaccato. Le faccio un esempio. Abbiamo ospitato nei giorni scorsi il senatore Dalla Zuanna, suo collega di partito, Partito Democratico, che ha proposto un emendamento che prevede il carcere per la cosiddetta gravidanza surrogata, quella che brutalmente viene definito utero in affitto. Il carcere, cioè, e tra l'altro ha detto: beh, non vorrei mai mettere in carcere il mio collega Lo Giudice, e anche perché la legge non è retrattiva. Capisce che quindi io vorrei che non vorrei che il mio collega non mandasse in carcere nemmeno gli altri papagay, che a differenza di quello che accade per esempio a tante coppie eterosessuali che purtroppo attivano pratiche di maternità surrogata in paesi poveri come l'India, la Thailandia, in cui i diritti delle donne non sono ben tutelati, ma si rivolgono esclusivamente a quelle situazioni fortemente tutelate dalle leggi di stati di alta civiltà giuridica come gli Stati Uniti, Canada, in cui i diritti delle donne sono normati, la loro libertà di scelta, la loro consapevolezza, la loro assenza di bisogno economico, la loro stabilità familiare sono tutti elementi che costituiscono un contorno che consente poi l'attivazione di rapporti veri, autentici fra queste due famiglie che si incontrano e continueranno, come nella pratica delle famiglie arcobaleno italiane, un rapporto che duri. Ma senatore, ma io lo citavo per dire, perché lei dice il Partito Democratico ha promesso questa legge, ma all'interno dello stesso partito vede che ci sono anime così differenti come di tutti i partiti. Guardi, noi stiamo raggiungendo il consenso pressoché unanime del gruppo su tutta la legge, tranne che sul punto che riguarda per l'appunto l'adozione del figlio del partner. Sì. Io l'invito che faccio sempre ai miei colleghi, uno e uno solo: attiviamo quel meccanismo che oggi è pratica costante nella legislazione italiana quando si parla di bambini, cioè dire riconosciamo ai bambini la stessa qualità e quantità di diritti fra di loro e dopo ragioniamo in separata sede sui comportamenti degli adulti. Per anni noi abbiamo avuto nel nostro comportamento una differenziazione di diritti che poi comportava una stigmatizzazione sociale tra i figli nati all'interno del matrimonio e i figli nati fuori dal matrimonio. Abbiamo definitivamente archiviato quella pagina che oggi ci sembra barbarica, perché si stigmatizzavano i bambini come deterrenza finché gli adulti non avessero rapporti sessuali fuori dal matrimonio. Affrontiamo il tema in questi termini, riconosciamo il diritto a questi bambini ad avere rapporti, come già fa la giurisprudenza italiana peraltro, ad avere rapporti legali con i loro genitori, e poi discutiamo di tutto. Qui Veronica, so che tu sei a favore delle unioni civili, però il tema maternità surrogata anche da donna mi interesserebbe capire cosa ne pensi. C'erano più aspetti. Una delle cose che infatti volevo anche chiedere al senatore è, secondo me c'è un fraintendimento di fondo che è legato alla questione dell'utero in affitto, cioè coloro che sono contrari a questa legge e si stanno appunto attaccando in particolare alle stepchild adoption continuano a spacciare la legge tutta, ma in particolare questa parte della legge, come se fosse un'apologia dell'utero in affitto e la utilizzano come vessillo che ricordiamo rimane vietato in Italia, però cosa dicono? Non è Sì, ma in realtà già su questo si fa una speculazione dicendo che ci sarà un incentivo dell'utilizzo della pratica dell'utero in affitto perché è riconosciuto il figlio del partner, sì, quindi del patrigno. Questo però è già un'illazione successiva, quando all'utero in affitto chi ricorre già ricorre, e quindi questa cioè, spostare tutto il problema legato a questa legge sul tema dell'utero in affitto, secondo me è una cosa grottesca, e secondo me il PD e coloro che sostengono il decreto di legge Cirinna dovrebbero fare chiarezza estrema su questo punto. Sì. Beh, ma lo dicono sempre, però fai la domanda appunto allo giudice, lo dicono. No, questo volevo capire, e loro lo dicono. Sì, però provo io a fare un po' di chiarezza su questo punto. La legge Cirinna, la legge sui diritti civili, non tocca di una virgola i divieti previsti dalla legge 40. La maternità surrogata, a me non piace l'espressione utile in affitto, sì, che si usa solo in Italia, è un'espressione del considero denigratoria nei confronti di quelle donne. La maternità surrogata è vietata nel nostro paese. E rimane vietato vietata, l'accesso, certo, alla fecondazione eterologa da parte delle coppie certo, lesbiche. Rimane assolutamente vietata rispetto all'incentivo e al disincentivo. Guarda, citavo prima il caso dei figli nati dal matrimonio. In questi anni in cui è stato vietato dalla legge, diciamo, attraverso lo stigma sui bambini, il concepire figli fuori dal matrimonio, il tasso di bambini che sono nascono fuori dal matrimonio è arrivato a un bambino su quattro, in alcune zone del paese un bambino su tre. Ci sono, sì, dei fenomeni sociali che tu puoi normare, ma che se, certo, sono legali non puoi, come dire, comprimere. La maternità surrogata è legale in paesi che non hanno. No, questo sì, però, senatore Lo Giudice, dicono i critici che passando la step child adoption, cioè la possibilità di adottare il figlio del partner della coppia dello stesso sesso, questo potrà incentivare più persone a andare all'estero, ovviamente, non a fare, sì, la maternità surrogata in Italia, che rimane vietata. Sì, sì, ma non è così, perché nel momento in cui una pratica è legale all'estero, appunto, non stiamo parlando di quei paesi, sì, del terzo mondo di cui dicevo prima, ma in paesi che ti, come dire, a cui l'Italia non ha tanto da invidiare dal punto di vista della tutela dei diritti delle donne, e questa pratica è legale, e, come dire, non funziona, sì, l'incentivo. L'incentivo lo dimostra il fatto che sono in numero assolutamente crescente anche nel nostro paese, come nel resto del mondo, le coppie omosessuali. Però Veronica, è questa la critica che viene fatta, no, Veronica? Sì, ma è una critica tutto infondata. No, anch'io trovo che sia assolutamente infondata. Cioè, io trovo che ci siano alcuni fenomeni che sono inarrestabili, e il ricorso appunto alla maternità surrogata, volendo usare questa espressione in alternativa all'utero in affitto, è sempre stata utilizzata nel tempo. Allora, un conto è tutto ciò che è il discorso relativo al normare queste pratiche, far sì che non avvengano in condizioni di indigenza, che avvengano in condizioni di sicurezza, che la madre scelga volontariamente di ricorrere a questa pratica. Detto questo, come dicevo ieri, l'idea che l'utero è mio e lo gestisca Alfano mi sembra un po' surreale. Non ti quindi, piace. O dalla Zuanna, anche se è il senatore del PD. Che tra l'altro è ancora più grottesco, essendo senatore del PD, se non altro Alfano cerca di raccogliere il suo bacino di voti. Ma su questo, guarda che sì, tematiche. Ma su questo non ci sono. Cioè, ci sai che ci sono i cattolici nel PD, ci sono. Non è che le contraddizioni interne al PD, dalla Binetti in poi. Ma non è che sono contraddizioni qua. I temi etici, non è che si ragiona per partiti. In questo senso, che chiaramente ci sono delle posizioni. Cioè, voglio dire, nel Partito Democratico siede appunto il senatore Lo Giudice, che è nostro ospite, che ha un figlio con la maternità surrogata, e siede il senatore Dalla Zuanna, che vuole il carcere per chi organizza la maternità surrogata. Queste sono le contraddizioni, ma nel PD come negli altri partiti, mi sembra di poter dire. Diciamo che tutti quelli che sono i temi etici tirano fuori in particolar modo quelle che sono le contraddizioni profonde. Però sicuramente c'è anche un che di bizzarro nel fatto che si stia nello stesso partito, a questo mio avviso. Sì. Comunque, senatore Lo Giudice, noi la ringraziamo, grazie per essere stato con noi. Sergio Lo Giudice, voglio ricordare, senatore del Partito Democratico. Dobbiamo andare a fare qualche minuto di pubblicità. Poi, cara Veronica, qua chiamano sui mozziconi. Te lo dico, alcuni sì, si mozzicone, cioè noi andiamo avanti ma certo, civili, no, poi avremo i mozziconi per terra, è una cosa che riguarda tutti noi tutti i giorni. Poi avremo ospite anche il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, tuo amico. Mio caro amico, ma non è questo essere, perché Massimo Bitonci ha chiesto e ottenuto il porto d'armi. Sei un po' invidioso, sento. No, io non porterei mai un'arma perché ho terrore, insomma. Però ha chiesto il porto d'armi. Polemica, perché il sindaco non può ottenere il porto d'armi. Tra l'altro dice la notizia, io non volevo neanche che uscisse, e invece è uscita. Comunque, tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Allora, le 8:42 minuti, oggi c'è qui con me Veronica Gentili del Fatto Quotidiano. Allora, quelli che dicono, ah, trasmissione di regime, non c'è contraddittorio sulla Cirinna, basta. Cioè, noi ascoltiamo tutti, il contraddittorio si fa con le domande. Oggi era ospite il senatore Lo Giudice, presidente, ex presidente Arcigay, che ha un figlio con la maternità surrogata. E qualche giorno fa era ospite il senatore Dalla Zuanna, che prevede il carcere per la maternità surrogata. Basta, non fate i furbetti a senso unico a dire quando le cose vi stanno bene o male. Si ascolta tutti, o no? Perfino tutti. Cara Veronica, sai cosa ci dice un ascoltatore? Vuoi essere una donna forno, Veronica? Io invece lotterò affinché non accada mai. Vedi? Però io voglio poter decidere se voglio essere una donna forno. È una questione di libertà. Signore, credo che tutte le donne debbano poter decidere cosa fare del loro corpo. Detto che io sono contrario all'utero in affitto. Cioè, sono contento di vivere in un paese che lo vieta. Ecco. Di quando si vuole prendere delle decisioni per gli altri pensando di limitarne le libertà decisionali. Sempre e comunque. Comunque, questo vale per il fine vita e vale per tutto il resto. Nonostante comunque sia una battaglia che attecchisce sulle anche no, femministe, certo. Io non sono mai d'accordo quando si vuole decidere per il corpo di qualcuno. Allora, prima del nostro ospite, riusciamo a due ascoltatori velocissimi. Giovanni da Torino, buongiorno Giovanni. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Eccoci, dica, grazie. Allora, solo un paio di considerazioni veloci. La prima riguardava una cosa che era stata detta durante il vostro programma ieri. Era sul merito del tradimento di Renzi, sul fatto che fosse stato al Family Day del 2007 e poi non fosse venuto a questo. Tradimento per me non è tanto un tradimento umano, ma quanto politico, nel senso che io mi ricordo durante le primarie del PD, per ben due volte durante i dibattimenti che erano stati mandati su Sky, a domanda diretta del giornalista in merito alle adozioni per le coppie omosessuali, lui disse... No, è vero, lo ricordo anch'io, ha sempre avuto una posizione, diciamo, un po' prudente, un po' più prudente rispetto adesso. Nel senso che lui disse che prima è necessario riformulare in maniera organica e corretta. Però guardi Giovanni, formalmente Renzi non è che ha sempre detto, infatti su questo tema il PD dà libertà di voto in Parlamento, quindi forse non è così convinto neanche adesso, non crede? Il problema è che lui si è espresso positivamente, almeno sull'agenzia di stampa, virgolettate le sue frasi, erano per me l'impianto, quello tedesco, che prevede la stepchild adoption. Quindi lei fa notare come elettore, a me questo fondamentalmente non era tanto la presenza o meno al Family Day del 2007, quella ovviamente era una cosa personale. Ma questo cambiamento di idea, no, ma è chiarissimo Giovanni, che devo dare spazio anche a Marco e poi andiamo al nostro ospite. Marco da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Telefono per una cosa molto semplice, mi ha dato abbastanza fastidio, diciamo, la trasmissione di oggi, e parto dal punto forse più semplice, il mozzicone di sigarette. Sì. Parlo di quello perché penso che sia la cosa più semplice, più diretta e... Io penso che il fatto del mozzicone di sigarette gettato per terra non si debba ridere di una cosa del genere, quella è la base della civiltà. Certo, così come buttare una carta di una caramella, come ridevamo nella dinamica del te lo spengo sulla lingua, non figurarsi. Chiaro, quello era provocatorio, ci mancherebbe. Io direi che però una persona che getta una sigaretta per terra forse dovrebbe anche un po' vergognarsi. Sono d'accordo con lei. E la multa è giusta. Con la multa, facciamo cassa. Sistemiamo tante cose con quelle multe lì. Bravo Marco, io sono con lei, sono Veronica, io sono con Marco da Novara. Certo, diciamo che essere tutti d'accordo su questi argomenti è più semplice che essere d'accordo su altri. Però non lo so, cara Veronica, non, la prenda come una battuta, sindaco, per carità, ma non è che lei non è che spara uno che butta il mozzicone di sigaretta per terra. Buongiorno. Il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, che oggi anche con due interviste sui giornali, perché la notizia, pensa, lei fa il sindaco, si occupa di tante cose, invece la notizia è che lei ha il porto d'armi. Ecco, questo è, e finisce sui giornali. Funziona un po' così nella comunicazione, ma voi siete dei maestri. Se per esempio ieri noi approviamo un importantissimo progetto, faremo il nuovo ospedale di Padova, a Padova Est, eh? Su un terreno comunale, quindi e invece la pistola. La notizia del giorno è che qualcuno della prefettura ha chiacchierato e ha detto che ha raccontato che Massimo Bitonci al porto d'armi. Perché lei non voleva dirlo. No, non è che volevo dirlo, io penso che siano delle questioni comunque che devono rimanere riservate, anche perché come ho spiegato anche oggi anche c'è un'intervista sia sul Fatto che sulla, sì, che sulla Repubblica, io l'ho fatto per difesa personale, perché ho avuto minacce di morte anche l'anno scorso, ho ricevuto una pallottola con minacce, ma non è neppure la prima volta. Chi fa il sindaco e chi lo fa poi come me, che cerco di dire sempre quello che penso, sì. Queste cose capitano, quindi le minacce sono continue. Ma capisce, però il segnale è proprio questo, cioè minacce continue, io mi armo. Sindaco, però non è che lei ne abbia fatto siamo mistero. Esposti, cioè nel senso, cioè probabilmente la giornalista del Fatto è molto meno esposta del sindaco Massimo Bitonci, cioè questa è la realtà. Non so se lei abbia ricevuto non credo. È stata una scelta che ho fatto, sono andato al poligono, quindi ho ottenuto la certificazione e ho chiesto il porto d'armi. Poi è noto che per quanto riguarda chi è esposto in questo modo come sottoscritto, viene rilasciato il porto d'armi. Ma io dico una cosa, io non capisco il perché di tutta questa polemica. Cioè, Veronica, qual è la polemica del Fatto? Come tantissimi cittadini che hanno il porto d'armi andando al poligono, esercitandosi. Il primo dovrebbe essere un esempio sostanzialmente, quindi nel momento in cui, per quanto la notizia sia trapelata, dice Bitonci, mi sembra che lui abbia sempre preso delle posizioni abbastanza chiare in merito, no? dal voler depenalizzare l'eccesso di legittimità difesa, a ritenere che se qualcuno viene aggredito in casa propria abbia diritto ad essere armato e a difendersi, insomma ha sempre preso delle posizioni molto nette sulle armi. Nel momento in cui lui per primo sceglie di armarsi e sceglie di ricorrere a questo mezzo perché ha ricevuto delle minacce piuttosto che chiedere il messaggio, forse è più importante il messaggio che passa dei costi per la scorta. Il messaggio è questo, quando una testata come quella del Fatto Quotidiano, che è molto attenta ai costi della politica, e c'è un sindaco che dice: io ho sempre rifiutato la scorta dal 2008 in poi, sempre, e l'ho fatto sempre, mentre il mio predecessore aveva la scorta solamente perché aveva ricevuto, tra virgolette, delle minacce da alcuni antagonisti di Padova. Ricordo peraltro che io tranquillamente nel mese di novembre sono andato al centro sociale da solo con la mia macchina, ho discusso con questi ragazzi, abbiamo trovato anche degli accordi. Ecco, cioè c'è un abuso dell'utilizzo in Italia delle scorte, cioè rendiamoci conto. Quindi penso lei che dice voi io non ho la scorta, scritto, però l'avete scritto più volte, c'è un abuso ogni volta che c'è una lettera. Ecco, ti appioppero la scorta, due militari più la macchina, insomma con un costo che non so quanti figli quanto, 100.000 euro. No, però c'è una frase, Veronica, che ha colpito, che lei, sindaco, non ha smentito, ha detto, cioè quando è andato a una manifestazione in solidarietà di quel tabaccaio che è stato condannato a 3 anni per aver sparato, ucciso, rapito. Sì, non alla schiena, ripeto. No, vabbè, ma questo... Esatto. Lei ha detto contrario alla liberalizzazione delle armi. Certo, lei ha detto succede a me che entra un ladro in casa in verticale, esce da casa mia in orizzontale. Certo. Cioè, ma non ho nessun problema a ripetere che poi è quello che pensano la maggior parte degli italiani. Sì, ma lei capisce che è molto diverso sondaggio. Detto ma da se lei. Mi lascia parlare, aspetta, spiego anche. Forse le spiego anche le cose, perché dopo se la discussione è No, io l'ho spiegata molto bene la cosa, cioè se un delinquente entra a casa tua e non viene a bere il tè, ma entra per armato, che può essere di un punteruolo, di un Kalashnikov, di una pistola, ma anche di un bastone. Io ricordo che a Gorgo al Monticano i due anziani che sono morti sono stati seviziati a bastonate, quindi uno... Si può sterminare una famiglia a pugni, quindi uno non può pensare che uno entra in una casa e il papà con i figli e la mamma dice scusi lei ha un punteruolo perché sì. così estraggo un punteruolo. O prego lei si accomodi. Bastone, cioè io non penso come pensano tutti gli italiani di affidare la sicurezza mia e della mia famiglia a una discussione tra un delinquente e delle persone. Allora, ma la posizione è chiara, Veronica, cosa non piace? Perché il messaggio di un sindaco dovrebbe essere diverso da quello di un cittadino? Perché se uno utilizza delle espressioni altisonanti come l'espressione che ha utilizzato Bitonci, se uno entra in casa mia non è invitato, entra in piedi ed esce disteso, questo in qualche modo è anche una campagna di propaganda, un certo modo di intendere anche la violenza, e questo ne abbiamo avuto innumerevoli riprove. La violenza esatto. la fa chi entra nelle case e non chi si difende, e per quello sì. noi non ce l'abbiamo con il giudice sulla questione Corazzola, ma ce l'abbiamo con la norma che deve essere modificata, sì, sì, perché sì. bisogna cancellare quella norma che parla di eccesso di legittima difesa sì. all'interno della propria perché il giudice e lo ricordiamo è liberalizzazione delle armi, no, perché ma questo no, giornalisti un'altra cosa. Cosa fanno una bellissima operazione di maquillage e dicono beh Bitonci è per liberalizzare le armi e andiamo verso un sistema come quello americano. No, lei è per cambiare la legge. No, lei è per cambiare la legge, cioè l'eccesso di legittima difesa lei non lo vorrebbe modificare, perché ricordiamolo, quel giudice che ha condannato a 3 anni adesso è sotto scorta per le minacce, cioè c'è tutto una cosa che si è avvinghiata. La mia piena solidarietà anche là ovviamente. Cioè perché il giudice ha una norma che è interpretabile, questa sì. è la realtà, invece bisogna dare ai giudici delle norme e che non siano interpretabili. Questo è il legislatore. Però Veronica, finisci, qual è? Insomma, l'eccesso di legittima difesa fa anche sì che non diventi il Far West, per cui cioè, ad azione corrisponde reazione, si spera equivalente. Quando c'è una sproporzione tra l'aggressione io che si sta subendo, che spesso casa, non è neanche un'aggressione. Io parlo a casa però effettivamente mia, a casa sua, cioè se mi entra un ladro non è che posso dire prego si accomodi. Mia, cioè, siamo all'assurdo, io non vado, non è che vado in giro, io parlo a casa mia, io devo poter difendere la mia famiglia. Se non viene lei a difendere la mia famiglia, me la difendo. No, ma non ci devo venire io, ci devono venire le forze dell'ordine. Lei so. Rappresenta le istituzioni, sindaco, non le rappresento io. C'è un ladro che è appena arrivato in casa, mi sta puntando un'arma addosso. Cosa devo fare? Ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, questi sindaco. Fatti avvengono ogni giorno. Allora, sindaco, noi ci dobbiamo fermare, devo chiudere. Ci dica solo, ce l'ha la pistola o no? Questa cosa lei non vuole rispondere, ma ce l'ha o no? No, non rispondo non perché risponde. è banalizzare un ragionamento che è un ragionamento serio, molto serio. Sì. Va bene, intanto... Se sparo bene al poligono, cioè, se vogliamo banalizzare un ragionamento serio, va bene, sparo bene al poligono. Fa da ridere. Intanto la ringraziamo, sindaco di Padova. Ma qui Veronica dobbiamo fermarci. Che dobbiamo dire? Dobbiamo fermarci. La solita ti fa arrabbiare. No, dai, non ti intristire. Ti fa arrabbiare il sindaco Bitonci. Vabbè, si discute. Devo cercare di controllarmi, poi mi dici che devo stare buona. Il allora bello è di... questo, si discute. Basta che per rabbia non fumi la sigaretta e butti il mozzicone per terra. Adesso, circa 5 minuti, va bene? Basta che non fai questo. Veronica, ti ringrazio. Grazie a tutti. Domani torno a Oscar Giannino. State tranquilli, a tutti quelli che scrivono. E niente, ci fermiamo qui. Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè. A domani.